buonasera a tutti, benvenuti alla nostra festa della poesia. Oggi è 21 marzo, festa della primavera, festa dell'acqua, ma l'UNESCO 20 anni fa ha deciso per fortuna di dedicare questa giornata mondiale alla poesia. Quindi siete i protagonisti di questa giornata, siete i migliori amici della biblioteca, perché è grazie a voi che anche la biblioteca vive con queste vostre partecipazioni. Sarà una bella festa e soprattutto vorrei chiamare subito una componente essenziale di questa serata, e con questo facciamo anche una prova di applauso, i ragazzi della scuola Rizzi Merano. Lasciamo tornare al loro lavoro e vi ringraziamo ancora. Complimenti anche a voi. Grazie. Vi presento Alessandra Tortosa, la sua voce conoscerete già perché fa molti programmi alla Radio Rai di Bolzano, in particolare Post-it. Il lunedì. Dico subito, io sono abituata a parlare al microfono in uno studio, non sono abituata a parlare con tanto pubblico davanti, quindi insomma un attimo di comprensione. Grazie. Volevo anche chiamare qui con noi un attimo, lasciatemelo fare, perché senza di loro non si fa niente, e sono Fabio Ferrarese, soprattutto dipenderà da voi e dalla carica che ci metterete questa sera e dai vostri applausi, mi raccomando. La Giulia, ce li abbiamo giurati? Ok, allora un applauso ancora. Allora, la giuria, diciamo esattamente anche chi sono queste persone che si sono prestate: Sara Sciortino, Silvana Mistani, Alberto Pasquali, Andrea Montani e Luca Sticcotti. Variegata che ci aiuterà questa sera insieme a voi a dare una valutazione alle vostre performance. Come funziona? Detto brevemente, verranno chiamate le persone in ordine di apparizione con dietro da Alessandra, poi ci sarà un applauso da parte vostra che ci darà già un'idea di come è stato gradito il componimento, ma soprattutto subito dopo l'applauso ci sarà uno stacchetto musicale che è il tempo in cui dovranno maturare la scelta, dopodiché alzeranno il cartello e noi raccoglieremo i punteggi. Un ringraziamento a tutti quelli che sono venuti qui, che partecipano. Queste manifestazioni funzionano solo se c'è una grande energia, una grande empatia, una grande collaborazione da parte di tutti. Lo staff della biblioteca lo conosco, insomma, anche come utente, e quindi so che sono sempre molto motivata. privati, ma anche il pubblico ha la sua parte. Ci sono a volte delle manifestazioni, degli eventi dove il pubblico assolutamente non partecipa, mi sembra che questo invece sia esattamente l'opposto, quindi grazie a tutti. E un grazie anche a Patrick Burru che è dietro di là con i ragazzi del Vince, ma che voglio ringraziare, che è sempre un nostro collega della biblioteca. Grazie. E la chiamata alla persona recita o legge la poesia, dopodiché partiranno poi gli applausi. Il primo, suo malgrado, volente o nolente, è Claudio Crepalli. Grazie. E devo rompere il ghiaccio, anche se poeta è una parola molto molto grossa. Nuvola. Disceso sulla nuvola bianca, viaggiavo lentamente nell'immenso cielo, con accanto l'amico sole che scaldava i miei felici pensieri. Dall'alto vedevo tanta crudeltà e ingiustizia cui era sottoposto giornalmente l'essere umano. Sentivo i suoi lamenti, la sua precarietà di lavoro e di vita. Ma non mi interessava, io ero sicuro in quella leggera nuvola. Ero immune a tutto, pensavo solo a me stesso e mi racchiavo, senza rendermi conto che quella dolce nuvola si stava oscurando sempre più, diventando sempre più nera. La sua morbidezza velocemente si trasformava in una pungente e cielenta acqua. Cercavo di aggrapparmi con tutte le mie forze per non cadere, ma era impossibile. Il tutto era diventato nero, viscido, acqua che cadeva velocemente sulla terra. Nessun appiglio dove aggrapparmi. Fui scaraventato a terra in mezzo al fango di una pozzanghera. Solo in quell'istante mi resi conto di essere anch'io un essere umano. Allora, i voti sono un 9, 7, 7, 7, 7, 8 e 6. Benissimo. Allora, siamo con... Adesso chiamiamo Luisa Pesarina. Proseguiamo con Mutin Cercic. Buonasera. Fiori di melodie. Ognuno di noi ha il suo Dio. Io glielo darei a tutti. Il mio Dio è diverso. Lui rispetta me e io rispetto lui. Il mio Dio è circondato di fresie, di bucaneve, di gabbiere gialle, di gigli, di mughetti. Nella mano sinistra tiene sempre rosa bianca, invece nella destra fiore viola. In ogni momento mio Dio è da qualche parte, è sempre vicino. Non è invadente. Non si arrabbia quando dimentico di lui. Mi disse che capita la stessa cosa anche a lui. Mio Dio guarda cosa fanno altri. A lui non piace che altri stanno facendo le cose che non sono degne di Dio. A lui non piace l'atteggiamento dell'altri, il loro comportamento, che pensano che sono sopra di tutti e che altri valgono di meno. Lui non pensa come loro. Mio Dio profuma di sterlizia, di fiordaliso, di gelsomino giallo. Dopo un po' di tempo mi disse: io vado. E con la rosa arancione parte a vedere cosa dicono altri dei. Non passa molto tempo e il mio Dio torna senza iris, ma con il solidale. E disse a me, a dire a voi, se i nostri dei non riescono a mettersi d'accordo, provate voi, magari da soli riuscirete a trovare senso alla vita e alla pace. La protagonista del mio libro, ma ripeto, non è stato pubblicato. Silvia è una donna profondamente in crisi che subisce abusi psicologici, soprattutto sia sul posto di lavoro che dall'ex marito, insomma, una donna che vive ingabbiata nelle sue paure. E una sera si sente particolarmente triste, pensa anche di farla finita. Questo è l'inizio. Stasera le mie amiche sono tutte impegnate e poi è martedì, una giornata insulsa, troppo distante dal fine settimana. Entro in casa ed è quasi buio, il temporale si sta avvicinando. Vedo i lampi nel cielo e poco dopo il rombo dei tuoni mi fa vibrare. Anche la bocca dello stomaco. Ho paura, sono angosciata, nemmeno qualcuno a cui telefonare. Tra me e la mia famiglia è sceso il gelo da quando mi sono separata. Mi trattano freddamente, non credono a ciò che racconto. Non si interessano di me, del mio lavoro, della mia vita. L'unica cosa di cui si occupano assiduamente, quasi in maniera morbosa, è mio figlio. E me lo hanno pressoché fagocitato. Sono talmente impegnati a fargli credere che io non sono una buona madre, che sto cominciando a crederci pure io. A questo punto che senso ha continuare a vivere? Privata di ogni tipo di considerazione, vivo in un appartamento di 60 metri quadri che non è nemmeno mio, con un figlio che senza di me potrebbe farcela benissimo e forse vivere anche più tranquillamente. E se la facessi finita? No. Il taglio delle vene no, il sangue mi fa schifo, ferirmi con la lametta sarebbe troppo doloroso. E poi magari per il troppo male non avrei la forza di affondare la lama di netto e così di tranciarmi le vene come si deve. E poi troppa preparazione, riempire la vasca da bagno di acqua bollente, immergersi, farle fluire il sangue più velocemente, insomma tutta la patata del serbatoio dello scaldabagno potrebbe finire e poi forse non sarebbe sufficiente. E poi no, morendo di emorragia tutto quel sangue che gocciola sul pavimento color panna che mi piace tanto, ma si sa, il gresso porcellanato è poroso e assorbe. e poi le macchie non verrebbero via nemmeno con la varechina, e dopo la mia morte bisognerebbe anche pensare a cambiare le piastrelle. Ah, troppo costoso, voglio andarmene senza fare troppo rumore. Potrei imbottirmi di barbiturici, ma dove vado a reperirli? Chi me li potrebbe prescrivere? In casa ho soltanto medicinali in dosaggio per bambini, non ho nemmeno un'aspirina. Il mio medico non me li prescrive mai. Ho un'amica farmacista, ma proprio per questo, attraverso di lei, non riuscirei di certo a procurarmeli. E poi voi mettereli. Anche riuscendo a procurarmeli, il volto a stomaco che mi verrebbe dopo aver ingoiato tutte quelle pastiglie, e poi magari in un momento di disperazione mi verrebbe da aggrapparmi al telefono e chiedere aiuto, e mi potrebbero salvare portandomi all'ospedale. Ma mi puoi farebbero la lavanda gastrica e apri il cielo, no? È impensabile vomitare davanti a degli estranei. Ci sono, mi butto sotto un treno. Però sono stanca, non ho voglia di alzarmi dal divano, non ho forza di andare a piedi o in bicicletta sino in stazione e poi una volta al binario. Siamo sicuri che ce la farei a buttarmi sotto il primo treno in arrivo? Magari nel tragitto mi potrebbe passare l'istinto suicida e poi mi toccherebbe rientrare da sola attraversando la piazza che di sera è frequentata da spacciatori, prostitute e delinquenti di ogni genere, rischiando di essere aggredita, scippata, violentata oppure persino uccisa. È mica facile fare il piano per suicidarsi e ci sono tante cose da considerare. Bisogna avere coraggio, determinazione, forza di volontà, oppure bisogna offuscare il più possibile l'istinto di conservazione. Sì, magari con una droga, con un gas, sì, il gas di scarico dell'automobile. Ricordo che durante una lezione di chimica e di scienze a scuola dalle suore, la professoressa ci aveva spiegato che il monossido di carbonio che fuoriesce dal tubo di scappamento è letale per l'essere umano. Il monossido di carbonio, infatti, presenta un'affinità per l'emoglobina 200-300 volte maggiore rispetto all'ossigeno. Quando c'è in circolazione CO, questo si lega all'emoglobina e quindi i danni gravi a carico del nostro corpo sono gli organi principali come il cervello e il cuore. Ditelo da un oltre. Okay. A posto così, grazie mille per la vita. Un, sette, sei, e sei. Ok, andiamo. Paolo Bagozzi. Forza Paolo. Il testo parla dell'oscurità che può provenire da una scelta nel periodo adolescenziale. Mi sento avvolto dall'oscurità, come cieco in questa vita oscura, senza potermi orientare, svalutato dalle opinioni altrui, senza legami con passato, presente e futuro. Mi pare di essere stato abbandonato alle avversità senza riuscire a superare gli ostacoli impostimi dalla vita, giudicato da tutti coloro che mi sono vicini come se la scelta fosse loro e non mia. Avvolto dai terrori di questo mondo, con il tempo che scorre inesorabile, senza dare il tempo di prendere il fiato, inseguiti dalle paure e dai mali dell'umanità, cercando di capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Circondato da pochi perfetti e molti storti che ti tolgono la terra da sotto i piedi, non compreso dai miei figli come io non comprendo loro. Il lume della tranquillità che sembra così vicino ma ancora difficile da conquistare, con la testa che continua a porsi problemi insormontabili a cui spero un giorno di dare risposta. Grazie. e 9. Grazie. Scala di 6 gradini ci separa. 6 gradini e tu non scendi. 6 gradini e non salvo. Sono il fruscio di un giornale. Poi in silenzio. Sono salvo. Notte buia. Il rumore dei motori in un lieve ondeggiare in culla. Mare e cielo si fondono in un unico inchiostro nero. Io non parlo. Tu non parli. E nel silenzio stride l'anima. In un pianto alla ricerca del Dio. Sono salvo. Grazie, Carmen. 7 e 9. Morena Ferraloro. Prego. Le sussurriamo sottovoce per dar vita all'impegno voluto. Le pronunciamo piano piano e sappiamo che è atroce non averci creduto. La mente ormai stanca tradisce l'attesa del tempo che avanza. Tradisce il da fare a cui dare una speranza. E in questo disfare che mi vede meschina, ricordo quel sogno quando ero bambina. Il solo sentiero che la mente passava celava il buio nell'antica mia stanza e il cuore bruciava di tanta speranza. Non tradire chi la vita l'aveva passata e contava su te perché fosse salvata. E se spezzassi io il cerchio, se ne fossi serena, mi chiedo e arrovello e quel corpo è ormai vecchio, stringendone quel mondo con aria pena. Lo faccio, è sicuro, non ho poi sbagliato, mi guardo allo specchio ma l'animo scuro. Spezzare quel voto e farlo adesso, ma crederci dentro è un pugno, è un muro. Ti guardo e ti vedo, il corpo dismesso, non parli e ti trema la mano. Non cerco una scusa, è vecchio quel brano. Sono sola a decidere che questo sia strano? Non credo io possa allungare la mano a chi ha rinunciato a parole non dette, a chi non ha fatto le cose corrette. Li mormoriamo piano piano, sperando di essere forti. Non sappiamo che presso anche noi saremo mai morti. Lasciando ad un altro però l'eterno dilemma che ci lascia confusi a cercare negli altri i giusti pensieri, i loro rinchiusi. Assieme al principe tedesco Galak, suo consorte, dal quale ebbe molti bambini. Essendo tedesco, il principe volle chiamare i propri figli tutti con lo stesso nome, Kinder, seguito dalla particolarità di una vita. Vi erano allora Kinder Bueno, primogenito, rispondeva sempre sì a mamma e papà, poi Kinder Pinguino, perché il suo buffo modo di camminare, Kinder Latte, per la sua carnagione bianca, Kinder Cioccolato, che era invece l'opposto. E Kinder Maxi, che era sempre stato un po' ovvio. C'era anche una femmina, l'unica, molto dolce, Kinder Paris. L'ultimo nato invece può che i genitori erano già in tarda età e non se lo sarebbero mai più aspettato, Kinder Sorpresa. In quel castello la principessa Nutella si annoiava a morte, il marito era geloso e non la faceva mai uscire e lei rimaneva sul torrione del castello a guardare la valle, sperando chissà che. Ma una notte di 9 luglio lo vide arrivare da lontano. Da prima non ci voleva credere, ma poi pensò, ma certo che lui viviamo in una favola, era il principe azzurro. Principe, principe, mon cherie, portami via di qui, dalla principessa Luzzella. Portami anche con te, ti prego. Non posso, principessa, mi dispiace, ma non posso proprio, rispose il principe. Ma Nestlé, nessuno li vuole portare con sé, rispose lei. Avevano tutti quanti leggero difetto di pronuncia per lei. Ho già un appuntamento alla locanda più vicina della Perugina, con la quale avevo una tresca, rispose il principe azzurro. E sono già in ritardo, poi principe Salutella, aggiunse il principe, se lo lascio dire. Lei non è stata mai troppo bella, ed ha anche il duplo degli anni di me. Milano, rispose Nutella, e poi il duplo dei tuoi anni, le palle di Mozart. Ricordo che i piccoli mi raccontavano già di te, vecchio scorreggione a cacao. Il principe a quel punto tornò a cavallo su un parco. Adoravo la principessa Nutella, lui non vedeva l'ora di assaggiare i baci della cucina. Arrivò alla locanda a notte fonda, entrò senza bussare e fece molto male. Che vide? La sua amata locandiera tra le braccia di un uomo. Carnegotti, che succede qui? Urlò furioso. Come ti permettete? Rispose l'uomo. Voi non sapete con chi avete a che fare. Io sono il contrascente della nobile casata di Ferrero. Ah, il famoso Ferrero Rocher, esclamò il principe, che non si casse d'aria. Anzi, estrasse due della spada e con un terribile fondente tagliò il due Rocher. Ed ora me lo mangio pure, disse sotto gli occhi inorriditi della giovane locandiera. E quanto a te, non ti voglio più rivedere, lurida pralina, le disse, gettandogli addosso tutti i bigliettini con le frasi d'amore che lei gli leggeva sempre prima di dargli un bacio. Avanti marcia, questo il principe, è ora di andare, non voglio mica che mi sorprendano i gendarmi, devo proseguire il viaggio, ma dove andare? Dentro un lungo sorso d'acqua dalla caffara che era sul tavolo, si infilò due pochi coffi nella tasca per non addormentarsi e uscì. Si fece ridare il cavallo rifocillato da Jean Duyot, lo stagliere, gli lasciò un tombrellone di mance. Avrebbe potuto andare in Austria, lì conosceva Freud e Lindor, una ragazza d'oro. No, non voleva più relazioni impegnative, aveva appena visto come andavano a finire. Si trovò in tasca per cercare qualcosa da mangiare e si ritrovò per la dita un bigliettino stropicciato della perugina. L'ultimo rimasto, lo adesso. Amare a volte significa semplicemente non dolce. Il numero in viso era un segnale che la vita gli dava. Basta con l'amore, da qui in avanti si sarebbe solo divertito. Leggerezza avrebbe potuto aver chiunque. Lui era il principe azzurro. Ora sapete dove andare. A Parigi, attraversò la Côte d'Or in Borgogna, feudo del suo amico barone Ritter von Loacker. In pochi giorni sarebbe arrivato. Lì viveva Madame Lespris, una vedova conosciuta anni prima, che aveva due splendide figlie gemelle, le sorelle di Fuori. Con 10 poeri d'oro se ne sarebbe cavata, la vecchia non avrebbe fatto problemi, lui sarebbe potuto partire con le due ragazze alla volta delle Havre, nel nord della Francia. Da lì si sarebbero imbarcati su Bounty, un grande pediero diretto in Spagna. Ogni volta sbarcati sarebbe stata ogni giorno una grande fiesta. Pensavo così, tra sé e sé. Entrando nel bosco saltò agilmente un paio di grossi tronchi che erano perduti tra i traversi sul sentiere. Alcuni zaini dati nei maletti notturni e si vennero in stanza. Lui continuò per quelle rame antiche della notte sotto un cielo pieno di smalti. Ed era così felice che lo si poteva sentire da lontano cantare un allegro motivetto. Voglio le tue gemelle che mi piacciono tanto. Ecco, ti chiamo di più, giù. Sulle mura della città bianca il leone ha assopito. Ha rossa è la voce del vento che sfoglia la passione, perché solo le parole della poesia hanno il suono della verità. Nel giardino dei pavoni si avvederano i sazi amanti, mentre le trombe risuonano nel deserto dei cavalieri. Dalla torre, accecati e legati schiena contro schiena, crediamo i nostri versi, e nessuno più ascolta, mentre tutti fuggono le armate nere. Il leone tarda a risvegliarsi, invano attesa. Gli accecati amanti soffocheranno nella sabbia e le loro ossa saranno disperse nel nulla della storia. Qualcuno nasconda la poesia nel segreto della terra. Da scena. C'è un po' di preparazione per questa performance. Come avete capito, non c'è introduzione, non c'è intervista, non c'è spiegazione, sono proprio poesie che vengono percepite così, distinto a pelle. Adesso faccio io l'introduzione, però. Il microfono deve... No, grazie. No, non vuole? Buonasera, ladies and gentlemen. Oggetti hanno una certa importanza in vita nostra, specialmente oggetti che troviamo nella propria casa. Rimangono con noi per tutta la vita e rimangono con noi dopo che noi siamo partiti. Possono offrire conforto, possiamo stabilire il rapporto con oggetti e possono alla volta anche darci una certa ispirazione. Questa poesia si tratta di un oggetto, l'inanimato. At times I brush past you, hardly a recognition shown, even a touch of disdain. Just you being there is objection sound. This the thought I matter and never dare to err. And worse than worse can be, when I am down and out, and without a care for this world, your presence is irritation complete. Get out! Out, you crazy thing! Cease to compete, you wicked thing! Yet there are times, too few I know, where the essential me shows through. And I sit and look and see you and recall all that you mean to me. Times they were, what times they were. I dreamed, prayed and realized what you would mean to me. Blind, inanimate thing, offering to me a simple home and sense of belonging to. How can that possibly be? I recall other times too, too well to ignore. Times of death and despair. No human voice I sought, for my only solace could be in you, my rocking thing. A lighter note touched us at times, at ease one with the other, I with you and you with I, using each other as one and one should, soothing, cooling, invigorating ease. Contentment and reflection was ours for the keeping, such as the game we idly played, entwined as we became, cuddling and beaming, relishing happiness, a gift we entertained. Inanimate thing, grand are you, sturdier and steadfast beyond your look. Understanding is now pouring through. Your power is infinitely greater than mine can be. Shared emotions, we had a few, and you have taught me the only truth. Inanimate am I too. Inanimate, you hear. Surely inanimate to remain. And it remains for you, you wooden thing, to animate my soul, my friend, my rocking chair. Di quelle che mi era sicura era un'astronave preistorica che languiva da qualche parte. Se l'avessi incontrata l'avrei definita una buffa scimmietta verde, ma lei nel suo universo era bellissima. Camminò con passo incerto guardandosi intorno. Fiutò altri materiali strani nell'aria che il suo cervello tradusse per lei: carta, cartone, colla. Poi la vide. Ma che cos'era? Fino a lei quell'astronave preistorica che è così lontana dai suoi mondi. Quello strano materiale, carta, secondo le sue coordinate, non era in grado di spostarsi. E che cos'erano quei segni strani? Scritte, le codificò immediatamente la sua intelligenza superiore. Scrittura. Eppure non riusciva a capire. Si concentrò, gli occhi gialli brillanti di curiosità. Tempo, scrittura. Per la prima volta nella sua esistenza, l'abitante più intelligente di papiro struttuante non capiva. Scrittura, tempo, viaggio. Tutto il suo essere cercava ora di attingere all'energia dell'universo per assorbire e decifrare quei concetti ignoti. Il suo cervello osmotico era saturo, assorbiva informazioni ed energie nuove e antiche che la ubriacavano e la disorientavano. A un certo punto intuì che il suo mondo era stato chiamato papyrus fluttuante. Vide cose di un passato lontano affacciarsi alla sua mente e intuì il concetto di tempo. Capì anche perché io riuscivo a vederla e perché quell'astronave fosse in grado di fluttuare tra universi e tempi sconosciuti, nonostante la sua intelligenza superiore decretasse che non fosse fisicamente possibile. Ma non si trattava di fisica o di realtà. La buffa scimmietta verde, che nel suo universo era bellissima, osservò quell'elica invitante e contorse il muso in una smorfia preistorica che un tempo chiamavano sorriso. Salì a bordo, pronta a partire alla scoperta di antiche punteggiature ed intramontabili emozioni. Io la stavo aspettando. Otto. Paolo Chiesa. Non c'è. Giovanna Salvaterra. Ho scritto questa poesia per onorare Alex Langer. Tanti anni fa è morto, dopo che era stato in Bosnia con la guerra terribile, si è venuto talmente angosciato che è morto su un albero di pesco. E per caso siamo arrivati in quel posto lì alle periferie di Firenze. Non l'ho cercato. Penso che il suo spirito ci ha guidato lì e poi arrivata a casa ho voluto scrivere una poesia per lui, perché era un uomo di pace. Una rosa per Alex Langer. Sul vecchio muretto di sassi la rosa rossa di luglio appoggia stanca la sua corolla di petali. Vorrei raggiungerti, giovane cittadino del mondo, abbracciarti i piedi, tenerti stretto con le nodose radici della terra, perché tu non faccia pazzie, ma invece ti lascio danzare sul prato bagnato nel mattino di luglio. All'ape regina tu offri il sangue scarlato come petali setosi di rosa. Sul piatto vuoto l'ape regina risponde: il nettare nel fiore sciopera, sciopera l'amore nel tempo, fermo nell'attimo, mentre stanco riposi sul muretto di sassi antichi, immobile. Una lucertola, forse, ascolta Dio, Dio mio. Enea Bonato. La facciamo fare ancora due o tre, poi faremo una pausa. Una pausa dopo, sì. Enea Bonato. È scappato. Allora andiamo avanti con Umberto Bombasaro. Stupidaggini, siamo robotizzati, macchine umane, pastice, proprietà di altri, succubi, allevi, carceri, metalli, esaltati da paradisi di cemento, trascinati confusamente tra tumuli di plastica, genuflessi alle nuove divinità, colazione, nuovi caratteri anatomici, fibra ottica, cellulari, smartphone, e partiti per i selfie, Facebook, social network, la rivoluzione del web, Google. Oggi, per sentirmi vivo, scarico un'app e faccio un selfie, un nuovo tatuaggio. Forse con la lingua sono stato tutto tatuato. Mai. Il 13 la consolava. Sto andando a trovare un amico, vieni con me, ti farà bene. Il 12 aprì la porta. Di corsa, un incidente gravissimo. Pensavano 13 e 14. La vita è piena di sorprese. Come sono sfortunata. L'11 giaceva disteso. Non ricordo più nulla, urlava. Non mi riconosce più, piangeva il 10 accanto a lei. Davanti al 9 passò un camion. L'aria la riscosse e vide 8. 7 mi ha scritto, dicevano i suoi occhi sorridenti dall'altra parte della strada. 6 aspettava sua sorella, in anticipo ritardo. Desiderava un flauto. E gli piaceva guardare giocare. Batte 5, risponde 4. 5 alzò la palla e colpì lentamente. 4 saltò, agitando i capelli castani e gli occhi chiari. Abbagliata dal sole, vide lontano montagne di neve. Luccicano, pensò toccando terra. In mezzo a quel biancore, 3, di rosso vestito, camminava muto. Devo stare attento a dove metto i piedi. Il 2 si confondeva nella neve. L'1, si sa, esiste. Ti avevo detto che ci siamo incontrati. Stasera la musica è nostra. Motore in corsa. Ti dà fastidio quel rumore che non ha a che fare con la libertà. Eppure col vento in faccia. Eppure ridono senza sapere dove vanno. Si accendono come lampioni. Fanno ancora luccicare come l'oro. C'è uno splendore in questa via ricoperta di ghiaccio. È una strada senza impronte. È una strada che lascia passare tutti, dimentica notti, assuefatte, su cuscini. Ridiamo come ragazzini, in vena di noi. Nella vita sono pochi gli orgasmi, così io nel tuo trovo il mio. Così ci sediamo ai bordi di ciò che resta, sui nostri passi. Se vuoi stasera hai l'ora in tasca, lei incastrata in un sogno di gatta. Non c'è niente da fare, questa è una professionista. Esiste però abbracciarla. Gli artisti, indescrivibilmente indescrivibili, si procurarono uno spazio vuoto, bianco, e questo vuoto lo fanno sparire tramite i colori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arrivo! Rosso, lì, per pensativi di quel pennello! Trovato anche te, verde! Ah, blu, ti ho visto spuntare fuori da quel buchetto del fapunte! Fanno modo che questi colori riescano a formare un tutt'uno. A volte è bello, perché riconosci quel che vogliono dirti, quel che vogliono mostrarti, e altre volte invece è proprio bello perché tu non riesci a definire il tuo davanti. Indefinito, la bellezza indefinita. Poi ti fanno chiudere gli occhi, ma te lo devono ripetere un paio di volte dopo che ti guardi con aria. Ma ho capito bene? Perché tu ti senti intelligente? 1 più 1 fa 2, punto e basta. Bravo, bravo! No, io vado oltre. Loro vanno oltre. Con gli occhi chiusi non puoi vedere? Con gli occhi chiusi tu puoi sentire. E quindi ascolta. Questi artisti giocano col silenzio e con il chiasso e con le melodie. E con gli occhi chiusi tu finalmente capisci. Capisci che non c'è limite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, via! La tema parte lì sotto il pedale del pianoforte. Si bemolle, ti stai arrampicando su per la linea da chiave di violino. E pausa troppo corta, smettila di rincorrere il do. Te l'abbiamo detto che devi aspettare il tuo turno. E poi la forza delle parole. La forza delle parole, ma la sentite? Visto te gli articoli sull'abisso di quella copertina di quel libro grosso. Anche tu bisbiglio, vieni fuori da quelle labbra secche. E parola finale nell'inchiostro liquido di quella penna stilografica. Il decidere di cosa dire, di come dirlo, a chi dirlo, o semplicemente di non dirlo. Ma la forza delle parole, la sentite? Potrei proseguire all'infinito a descrivervi questo movimento composto da una sola persona, da non solo artisti, ma composto dall'infinito stesso. 1, 2, 3. Oddio, guardate chi c'è! Però quelli dietro, ascoltate più lentamente che la fate scappare. Vi presento la nostra amata denominata, ma soprattutto ricercata nemica. O forse amica. Non abbiate paura di guardarla in faccia. Anzi, gustatevi così tante che presto svanirà. E tutti loro, e noi, che in fondo siamo un po' come loro, no? Saremo sempre alla ricerca di questa stupenda ispirazione. Grazie. immagino, perché un lavoro anche pesante. Grazie. Ridi. Quando ridi sei bellissima. L'armonia delle tue emozioni sconvolge l'aria intorno. Lo spazio prende la forma del tuo cuore. Sei bellissima quando ridi, amore mio. E tu ridi, ridi, d'infinito ridi. Grazie. Votazioni per Aida, 3, 2, 1, in alto, 8, 7, 7, 8, 8, 7 e 7. Grazie. In certi momenti di una giornata particolare, quando hai fatto pulizia nella testa che si gode una specie di silenzio pieno, le piccole cose inconsistenti diventano protagoniste assolute e riconoscendo loro contenere un segreto. Una cosa minima, come una folata di vento che ha vinto la resistenza di una tendina bianca di lino che ti abbraccia una spalla e la schiena bollente per l'afa d'agosto, ti porta una piccola felicità e una nuova grande idea sul mondo e su come dovresti rapportarti a lui. La crepa sul muro, il profumo di glicine e quello del caffè, una risata distante, improvvisa e notturna, un cane che borbotta qualcosa, la sensazione della pancia nella mano e giocare coi piedi mentre guardi qualcosa. Ecco, tutto improvvisamente diventa importante e completo. È quel galleggiare di foglia sul laghetto che non ha pressione, resistenza e motivo. Se ne va e basta. Altre volte senti bene la schiena, ascolti i gomiti e le guance e fai filosofia con i tuoi capelli gonfi e carichi di emozioni elettriche. Senti che l'occlusione dentale aiuta benissimo la comunicazione. Cerchi di toccarti i polmoni e dai loro quell'aria che permette una postura elegante. E porti i piedi scalzi sull'erba bagnata e col naso percorri un prato e con la lingua che sente bene la bellezza l'orecchi coi petali dei fiori appiccicati ai denti. E corri, e ti affanni, e danzi. Altre invece hai bisogno di un percorso arritroso per ritrovare un sogno semisepolto ai margini di una strada non presa. Hai bisogno di una scalata di guerra per ricomporti, per ritrovare il vero blu del blu e il vero suono del vento. A volte sei solo nel momento, a volte desideri oltre, e non c'è regola se non quella di essere te in te. Grazie. Votiamo. 7, 7, 9, 7, 8, 8 e 7. Grazie. Natalie Marino. Trovavo in alto su cerchiamo, mentre loro andavano a sedersi sotto il cielo, passavo un cucino nel letto verso il fine. Grazie. Quartetto per archi in fa diesis. Foglie dell'immortalità iniziano a germogliare, comunione del cielo e della terra, orizzonte disteso pieno di fecondità, un angelo con il potere del fuoco, vita, linfa che assale, albero sacro, divino, bevanda degli dèi, animale senza radici, agile, ripetutamente in cerca di circonferenza, non c'è fretta sotto il sole, coltello a ventaglio, un vaso attinto di arcano. Mi espongo ad una materia luogo leggera che si accende in prospettiva di linea curva, orme di notte che rimbalzano, lividi in un vagare di verde a tratti intrappolato dalle nuvole. Sono città bellissime nel mondo. Io ho intitolato la mia poesia Bolzano. Bolzano, città del mondo. No. Quando Bolzano è nata dal creato, il creatore non ha dimenticato montagne circostanti e tanto verde, e il nostro sguardo gode, nulla perde. Le genti che si sono succedute ha lavorato poi per completare, utilizzando ferro, cemento e mente, monumenti, musei e altro da creare. Noi qui viviamo e oggi lo sappiamo, tutto ammiriamo, certo ci accorgiamo, ma visto dall'esterno noi subiamo. La convivenza per loro non comprendiamo. Lanciare strani falsi non accettiamo. E i dubbi se qualcuno si vuole levare, venga a vedere e qui può constatare che vive così a modo e da indare. Quanto si dà e si chiede, se si vuole, viversi può felici e in pace con parole. Quando si arriva ad una certa età, si scoprono i lati di un'altra umanità. Grazie. A posto? Mi devo ripetere? 7-7-8. A posto Fabio? Ce l'abbiamo fatta. Ancora due concorrenti. Rosa Biglietto. Il profumo all'improvviso. Il profumo all'improvviso si riaccende il mio sorriso. Un amore ritrovato che viene dal passato. Il piacere provato mi travolge, mi sorprende, morbosa mi rende. Ho solo un pensiero nella mia mente. Voglio te infinitamente. E adesso siamo arrivati all'aula dei bambini, l'ultima competenza della selezione finale del vincitore. Tutta la vita a cercare di amare e non riuscirci mai. questo chicco di sole che muore nella polvere. I voti 8 8 7 in fondo 9 8 7 e 9. Durante e quindi vedremo un attimo di pazienza, solo Fabio rielabora i dati e quindi vedremo chi sarà il vincitore. Premetto che siete tutti vincitori e per tutti ci sarà un omaggio da parte della biblioteca e quindi vi preghiamo di aspettare ancora un attimo e di stare con noi. Io volevo cogliere l'occasione per leggere il messaggio sulla giornata mondiale della poesia del direttore generale dell'UNESCO Audrey Azoulay. Tra le altre cose che ha scritto, ho preso solo alcune frasi perché è molto lungo, quindi ho preso proprio i punti centrali. La poesia è anche quest'arte unica che ci rende consapevoli della straordinaria diversità umana, la diversità delle lingue e delle culture. È un luogo di incontro tra l'individuo e il mondo. È un'introduzione alla differenza, al dialogo e alla pace. È la testimonianza dell'universalità della condizione umana che va oltre gli innumerevoli mezzi usati per descriverla. Tra l'altro l'UNESCO promuove e valorizza anche le poesie orali, quindi le culture orali. È particolarmente impegnato anche per salvare le culture orali del Vietnam, degli Emirati Arabi Uniti, le canzoni Baul del Bangladesh e l'eredità orale in Togo, Benin e Nigeria. Sapete che in tanti luoghi c'è solo la traduzione orale, quindi c'è il rischio proprio di perderla definitivamente. Infine, poiché la poesia è un atto di creazione e condivisione, l'UNESCO invita tutti in questa giornata mondiale, cioè oggi, a creare, inventare, condividere e aprirsi ad altre culture e ad altri modi di nominare il mondo, a rallegrarsi di tutto ciò che arricchisce la nostra diversità, poiché coltivare l'arte e coltivare la mente è anche coltivare la pace. Audrey Azoulay, direttore generale dell'UNESCO. Oggi è anche la data di nascita di una poetessa, ne parlavamo prima anche con Maria Piazzanetti, e cioè di Alda Merini. Bene, siamo giunti a termine, adesso abbiamo visto che ci sono due ex aequo sia al primo posto che al secondo posto, chiamiamo quindi i primi cinque in ordine: Paolo Bagozzi, Lena Simonetti, Bobby Gualtirolo e Nea Bonato, Giovanna Salvaterra, cioè ciascuno di loro torneranno qui e ci leggeranno un altro componimento e poi sceglieremo i tre finalisti. Quindi partiamo con Paolo Bagozzi in prima. Non l'avevo proprio preparato, però sentendo tutte queste poesie oggi mi è venuta qualche idea. Benissimo Paolo, bravo. Volevo parlarvi di un'entità superiore, perché io in realtà in qualcosa di superiore non so cosa credere. Ci sono tante idee: cristiani, ebraici, musulmani, islamici. A cosa si dovrebbe credere? Chi è giusto? Chi è sbagliato? Questo non lo so, ma quello che so, o almeno ciò che penso, è che chiunque ci sia là sopra, se ha creato la razza umana, vorrà a tutti in ugual modo bene, anche se crediamo in cose diverse. Bravo. Votazioni, pronti? 3, 2, 1, in alto. 9, 7, 7, 8, 10, 10, 10. Lena Simonetti. Al mio primo bagno. Ho indossato il mio primo vestito elegante, i miei primi tacchi, a parte il fatto che da piccola giocavo sempre a maestra con quelli di mia madre, e sono uscita per la prima volta essendo truccata bene, non considerando il carnevale ovviamente. Esisteva un certo qualcuno che era il 99% della mia presenza. Arrivati, la serata poteva finalmente incominciare. Ero già pronta per cercare un singolo angolo quando lo vidi, grazie universo, venire su per le scale. Fece lo scatto a quanto possibile con quelle scarpe per far sembrare come se ci stessimo approcciando per caso. Ehi, Ned Scavendish, sapeva. Sorrisi, questo funzionava sempre. O ti sta mia vostra viola su un po' di venire scarpe di Ned, anche con creme. Da far cambiare su punto, se te ne rassa nasi e puntetato, ti sta mia nostra. Wow, oh, oh, oh, oh. Rassa una zuffa. Brut, oh, testo. Bordeaux, testo. Wie meine Strümpfe. Gemeinsam kann sind das Netteste auf der Welt. Da sprach ich natürlich nicht laut aus, sonst wäre mein Gesicht zu einem Tomatenrot geworden, aber genug von Rotbühne musiziert. Sein Anzug war nämlich blau und das spiegelte sich perfekt in seinen Augenbildern. Halsschuppe, zwölf die Monette marron. Doch mein Blick wurde längst von der Fliege am Ende seines Halses angezogen. Nur eine Surprise. Krawatte oder Papillon? Krawatte oder Fliege? Hatte ich ihn nämlich schon spontan offen und ehrlich vor Chat gefragt. Fliegen kommen mir einfach authentisch vor, authentisch als Krawatten, die einfach nur sinnlos herumhängen. Und wie ich mich so umsah, wir waren doch echt auf einem hohen Niveau, weil du breit keine Krawatte in Sicht. Fliegen über Fliegen. Ci salutammo ed ero felicissima dopo questo discorso intimo e lungo che avevamo fatto. Auch wenn er nicht wirklich das gesagt hatte, was ich ihm in meinem Kopf vorgeschrieben hatte zu sagen. Wahrscheinlich hat er den Text nicht gelernt. Oder weiß er, vielleicht stand er einfach mehr auf Improvisation. E dato che la serata era ancora all'inizio della sua storia, ero sicura che ancora qualche occasione mi avrebbe spintonata e colta di sorpresa. Siccome potevo fidarmi di te, universo, no? Questa mia convinzione è sparire nulla, dopo che mi era passato di vicino più volte senza avermi considerato anche solo con un minimo sguardo. Avevo veramente pensato, ich dachte wirklich mit Wogen können wir diese Grenze überschreiten und von Sconosciuti zu Conosciuti wechseln und dann zu Kollegen und dann zu Freunden oder sogar zu besten Freunden. Comunque, avevo capito che avrei dovuto concentrarmi su altro. Chinare la testa all'indietro per osservare il soffitto, decorato con stucchi, l'eleganza in persona. Die Eleganz in Person, in Gebäude. Sie war netter als nett, fast schon schön einfach. Wow. Junge Frauen mit Kleidern und Zwecken nicht ganz erfüllten und den Rücken ihrer Trägerin in dem Publikum zur Schau stellten. Usato, pensai. Anche quando vidi la nonna che con le mani si tirava sul pallordo del suo vestito lungo per evitare che inciampasse, riconobbi che nascosto lì sotto stava indossando delle scarpe da ginnastica. Il dito del piede nero che la mia amica si sarebbe portata a casa come souvenir mi mostrò che quelle scarpe da ginnastica erano state l'unica vera intelligenza. Due maturanti gironzolavano con un cesto pieno di rose rosse bordeaux. Wie viel kosten die? 2 Euro. Stets als geflickte Margeriten auch zum Angebot. Nö, sagten die Bonkinen weiter. Die laute Disco-Musik übertönte den armen Pianisten des Raumes daneben, den keiner zuhörte. Nella stessa stanza c'erano dei dipinti messi in fila appoggiati al muro, che avevano creato le classi dell'artistico, anche quelli la gente ignorava. Io però trovavo impossibile non accorgermene. Ein Kopfnickeria, lächeln da, ein kurzes Winken. Conoscenti di giorni passati che non erano mai riusciti a raggiungere il prossimo livello dell'amicizia. Sollte dieser jemand heute im Publikum sitzen? Ich bin mir sicher, du bist ein. Wir sind doch alle jemand. Dann will ich Ihnen sagen, che non ho nessun problema, absolut kein Problem damit, dass er das alles jetzt weiß. Ich habe auch keine Angst davor, dass er mich morgen komisch anschauen wird, wenn er das überhaupt tut. Komisch ist es nur, weil keiner es ausspricht. Und im Namen der Komischheit opfere ich mich höchstpersönlich und offiziell. Forse voglio dirvi che non dovreste aspettare finché qualcuno vi dica quanto siete belli. Guardatevi nel vostro specchio interno e convincetevi da soli. Io sono che stavo fatto insieme al suo tanz al foro. Tanz, egal wo, egal wann, egal mit wem, tanz allein. Vielleicht will ich euch sagen, dass ihr einfach mal sagen sollt, was ihr sagen wollt. Ich mag dich, mi piaci, ich mag dich, così. Wahrscheinlich wisst ihr aber besser, was ich euch sagen wollte. Und wenn ich, habt ihr in der Zwischenzeit schon mal die rote Schlüpfer gleich wieder. Voti 9, 7, 8, 7, 7, 10, 9. Bravissima. Bobby Gualtirolo. Intanto grazie. Ne avevo un'altra da leggere, ma ho deciso che ne presento un'altra molto breve. Non c'è il punto a tempo, no. Ho rubato i frutti dal giardino degli dèi per nutrire i nostri amplessi sul letto della terra. I voti 9 8 8 8 7 8 e 8. Benissimo, anche per voi. Un altro. Se io fossi Europa mi metterei l'occhio. Se tu fossi Europa. Se io fossi Europa, brucierei tutto il mondo di uguaglianza. Se io fossi Europa, lo tempesterei di pace. Se io fossi Europa, lo annegherei il mondo di accoglienza e abbracci. Se io fossi Europa, lo sprofonderei nel profondo della vita umana vera. Se io fossi Europa, sarei allora gioconda, allegra, e metterei tutti voi europei nei guai con la mia serenità. Se fossi gioconda. Se fossi Europa, sai cosa farei? A tutti mozzarei il capo. A tutti vi staccherei la testa dal collo, però ve la riappiccicherei subito dopo. Con più capelli e più belli. Se io fossi Europa, andrei da mio padre. Se io fossi Europa, fuggirei da lui. E lo stesso farei con mia madre. Se io fossi Europa, come io sono, come voi siete, come noi siamo, prenderei le idee giovani e leggere. Quelle vecchie laide lascerei agli altri. Salvaterra, prego. La pittrice. La pittrice ha sempre la porta aperta. Dal cielo ha nevicato tutta la notte e il giorno. Nella luce grigia i suoi capelli brillano. Il flash di una foto inaugura la mostra. Entrando a sinistra, il terzo quadro, una colomba bianca in un triangolo rosso. Nel nero dell'occhio il sogno, ancora della notte appena passata. Scosse nervosamente le due pennellate bianche e volò via. Una colomba in un triangolo rosso non può stare ferma a guardare, pensò. In alto i voti, 8, scusami, 9, 7, 9, 8, 8, 8, 8. Abbiamo trovato due terze posizioni. Io direi che a questo punto possiamo fare i ringraziamenti. Vi vincitori, come vedete, li proclamiamo. Alessandra. Al primo posto, allora, Paolo Bagotti. Almeno a noi è sembrata una cosa divertente, ci ha fatto molto piacere ascoltare tutti voi e spero che siate ancora dei nostri quando riproporremo questa serata in maggio. Adesso ancora una data che non la conosciamo, ma ci terremo in contatto e continueremo così, insomma, conoscendoci, ampliando anche le possibilità con altre persone. Diffondete la parola, siamo solo contenti di poter continuare a promuovere e a festeggiare la poesia. Adesso le mie colleghe porteranno qui intanto i doni per i primi vincitori. Ecco, uno per Paolo Bagotti. Un applauso ancora. Foto, soprattutto magari le poesie e raccogliere continuamente queste poesie per avere sempre più degli stimoli e delle letture di grande respiro. Per tutti voi comunque c'è un regalo, possiamo chiamare anche gli altri nostri. Dai, venite per favore, se no, dai.